Il punto di Stefano Folli. Nel momento in cui ieri sera a 8:30 annunciava di non volersi ricandidare, D'Alema toccava un punto importante. Ci sono nel mondo assemblee parlamentari, ad esempio il Senato degli Stati Uniti, in cui l'anzianità è considerata un valore e non si misura sul numero dei mandati. È proprio così. In democrazia sono sempre gli elettori che decidono nel loro voto chi mandare in Parlamento e chi mandare a casa. Cosa c'è allora che non va in Italia? Sono le liste bloccate, le candidature decise in modo rigido dalle segreterie dei partiti. È questo che spezza il rapporto con i cittadini. La cosiddetta rottamazione è l'altra faccia delle liste bloccate, perché sempre di una decisione dall'alto si tratta, quando occorrerebbe invece lasciare agli elettori piena libertà di scelta. Ed essi potranno eleggere un giovane o un anziano, in base non al requisito dell'età, ma della competenza. Purtroppo la sinistra si è tenuta le liste bloccate e ancora oggi fa troppo poco per cambiare l'andazzo. E anche Renzi ragiona come se si dovesse conservare questo sistema, magari rottamando gli avversari interni.